La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Cari ascoltatori di Radio 24, Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto in diretta qui o in podcast. Siamo in diretta noi dagli studi di Radio 24 di Milano, sono le 16:30, primi 41 secondi e vado subito all'argomento del giorno. Oggi è una giornata in realtà che sarebbe ricca di spunti, da una parte sui mercati è tutto da capire, resta questa decisione della Fed di ieri sera che ci consegna una indicazione in realtà di grande prudenza, quasi di paura da parte della Fed, che doveva alzare i tassi perché sono allineate tutte le condizioni che aveva preventivato e comunicato per alzarli, ma non lo ha fatto perché stima che in realtà il problema della Cina e le difficoltà crescenti dei paesi emergenti siano tale da consigliare molta prudenza. Secondo aspetto, speriamo che nel DEF c'è la nota di aggiornamento delle stime economiche che sarà la base della prossima legge di stabilità e che il Consiglio dei Ministri approva in tardo pomeriggio, il governo ne tenga conto, cioè non se ne esca con previsioni di crescita chissà come stellari per l'anno prossimo per fare più deficit, perché come vedete sia l'invito della BCE di ieri sia la decisione della Fed di ieri sera indicano un orizzonte abbastanza complicato, non così roseo per così dire. Poi c'è un altro aspetto, questa polemica che è scoppiata stamane per la chiusura del Colosseo per un'assemblea sindacale a Roma e con Renzi che dice i sindacati sono i nemici dell'Italia, è l'ennesima volta, ricordate che è avvenuta più volte una cosa analoga a Pompei, abbiamo avuto a luglio 24 giorni di sciopero bianco all'ATAC con la città bloccata, tutte le volte noi rispieghiamo che con le norme vigenti, cioè con una legge che risale all'inizio degli anni 90, purtroppo lo stop, il no stop dell'erogazione dei servizi pubblici non è compatibile con il pieno esercizio dei diritti di sciopero sindacali, nel senso che a questo punto si verifica l'interruzione del servizio. Vedremo il governo che adesso preannuncia interventi che cosa farà, visto che è un anno che lo promette. Di questo però noi parleremo abbondantemente domani ai Conti della Belva, vi do già appuntamento, domani siamo in diretta dallo spazio Emilia Romagna a Expo dalle 10 alle 12, Conti della Belva con me, caro Alberto Cannavale Maffè, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Ci sarà un bel blocco su cui fin da oggi invito i romani in ascolto a telefonarci, perché parleremo a lungo delle condizioni di questa città, dei suoi conti pubblici, del fatto che arriva il Giubileo e il più dei piani delle opere non si potranno fare, del sindaco che fa scarica barile, degli appalti che rimangono all'87% a trattativa privata come sotto Alemanno, alla faccia della svolta, del fatto che ci si candida alle Olimpiadi malgrado tutto questo. Ecco, domani parleremo a lungo di questo, quindi telefonateci per intervenire, ve lo dico già adesso, all'800240024, e domani parleremo ai Conti della Belva anche della web tax, dei passi indietro che facciamo sull'apertura dei negozi, delle norme anti Airbnb che stanno arrivando con la legge regionale lombarda e con l'ordinanza del Comune di Roma, quindi alla faccia dei convegni sulla sharing economy. Di questo parleremo domani. Oggi invece un argomento che sembra misteriosamente uscito fuori dai radar dell'informazione. Parleremo della Grecia. E io devo dire che sono abbastanza senza parole, pur essendo decenni che faccio questo dannato mestiere. Noi abbiamo passato i 7 mesi primi di quest'anno inchiodati su una croce, che è quella del problema greco, tirando il respiro a ogni refolo di possibile apertura risolutiva di un problema che da solo descrive non le difficoltà solo estreme di un paese in ginocchio, ma quello che bisogna cambiare nelle regole europee quando non funzionano. Poi in extremis, lo ricordate, è arrivato il terzo programma di finanziamento con un nuovo memorandum per 85 miliardi, tutti tirano un sospiro di sollievo, naturalmente tutto resta da fare per quegli 85 miliardi, se non che Tsipras convoca le elezioni perché c'è un problema nel suo partito e perché vuole un mandato chiaro dai greci, appunto ad adempiere tutte le difficili riforme per rispettare l'impegno sottoscritto per avere gli 85 miliardi di sostegno alla Grecia, si vota in Grecia domenica, eppure la cosa sembra non fregare più niente a nessuno. Cioè, io oggi ho fatto una cernita degli corrispondenti italiani, i giornali hanno praticamente smontato tutto, non c'è una riga, e tutto questo non in presenza, perché lo capirei, di un risultato così chiaro per cui dici inutile occuparsi. Cioè, abbiamo la certezza che Tsipras le rivince con un pieno mandato, malgrado il sangue che ha perso e sta perdendo a sinistra. Oggi notizia ufficiale, Varoufakis ha comunicato, l'ex ministro del tesoro, poi sostituito da Tsakalotos, ricordate, ma molto popolare nella nuova sinistra europea, ha ufficialmente comunicato che non voterà per Tsipras, ma voterà per la nuova formazione alla sinistra di Tsipras, quindi molto polemico con Syriza. E il risultato in realtà è appeso a un'incertezza totale. Allora, di fronte a questo, come facciamo a non occuparcene, visto che il rischio molto concreto è che riparta il problema, perché è lungi dall'essere risolto? Ecco, io prima di presentarvi l'ospite che ne sa più di me, aggiungo due cose. Ricordatevi che l'impegno per quegli 85 miliardi sottintendeva: se andate un po' avanti, può essere che noi apriamo un confronto sul problema più rilevante che non è stato risolto, cioè quello dell'abbattimento del debito greco. Sapete che il Fondo Monetario si è detto favorevole, l'euroarea contraria, ma il problema è sul tappeto. Allora, per arrivare a quel problema, senza di cui comunque è insostenibile la situazione greca, ci vorrebbe un governo stabilmente impegnato nell'applicare tutte quelle riforme necessarie. Sono almeno 55 impegni rilevanti, ci ha informato stamattina Andrea Montanino, ex direttore generale del Fondo Monetario Internazionale. Andrea Montanino dice: io sono molto pessimista sul fatto che un nuovo governo non rimetta in discussione buona parte o una parte sostanziale di quell'accordo, quindi scommetto sul fatto, dice Andrea Montanino, che il problema riesploderà. Ecco, anche se l'illusione è stata quella di dire quelli che ci provano fino in fondo come i greci non hanno il fegato di farlo fino in fondo, perché poi vedono la gente che si allinea alle banche chiuse fuori e firmano, guardate che il problema c'è. E siccome il problema c'è, occupiamocene, visto che la Fed è così preoccupata di quello che può avvenire sulla crescita mondiale per effetto della Cina, Brasile, del rallentamento dei paesi emergenti. Ci manca solo riscoprire poi, dopo che non ce ne siamo occupati, che la Grecia ripropone il problema dell'Unione Europea che non si regge. Ecco, per parlarne meglio, iniziando innanzitutto a capire che cosa può avvenire secondo i sondaggi domenica in Grecia, è con me quello che io considero un grande giornalista, perché ecco, da un bel po' di anni, è inviato del Sole 24 Ore ed è autore del libro La Grecia ferita, che per Asterios Editore è uscito proprio in questo 2015, Vittorio Darold. Grazie, buon pomeriggio di essere con noi, Vittorio. Buon pomeriggio anche a voi, grazie di avermi chiamato. Allora, i sondaggi che io ho visto questa settimana non mi hanno fatto capire niente, perché ne ho visti 5, 2 dicono che vince Nea Dimokratia, cioè la forza moderata di destra che ha ripreso voti, 2 dicono che vince Syriza, 1 praticamente pari, e però il risultato è che nessuno dei partiti si prende il premio di maggioranza, quindi è un quadro di instabilità assoluto. Tu che dici? Sì, esattamente. Per avere la maggioranza devi avere almeno il 38% dei voti. I due partiti navigano tra il 27 e 26, quindi nessuno dei due, anche se uno dei due dovesse vincere questi 50 seggi di premio di maggioranza, non potrebbe raggiungere diciamo la maggioranza assoluta, cioè 151 voti su 300. A questo punto servirebbe una coalizione, però c'è un'altra incognita: la soglia del 3%. Se un piccolo partito, come ad esempio quello che era dei Greci Indipendenti, che era stato diciamo il partito junior della coalizione precedente con Syriza, non raggiunge il 3%, ecco che dobbiamo quindi cercarne un altro. Chi? Forse il vecchio socialisti del PASOK, che dal 48% erano, oggi sono al 6%, sono in un piccolo limite di sopravvivenza, oppure questo nuovo centro, questo partito di centro, Topotami, abbastanza centrista e in qualche modo liberista nella Grecia di oggi, per quanto si possa esserlo, ma anche qui forse non saranno sufficienti, quindi una coalizione che è difficile da formare. L'ultima possibilità è quella che i greci escludono, perché non ne hanno una memoria, non ne hanno una tradizione, la grande coalizione. Soprattutto sarebbe un paradosso, perché sarebbe la via tedesca, ancora una volta, quindi Atene che è costretta a percorrere la strada tedesca, che per loro è qualcosa di inimmaginabile, cioè la grande coalizione tra Siriza e la neodemocrazia, il partito conservatore. Però, se ben guardiamo, gli ultimi però il leader di neodemocrazia in realtà auspica, ma dice certo, meglio che ci mettiamo tutti insieme e facciamo quello che è necessario per questi 85 certo, miliardi. Perché le riforme sono difficilissime, implementarle sono ancora più complesse. Siamo in una fase dove il raccogliere le tasse è diventato complicato in questo paese, perché prima ci è stato dato una rateazione di 100 rate, quindi ci sono stati degli interventi in questi 7 mesi che hanno completamente dissestato il già precario equilibrio di quella capacità di riscossione. Inoltre c'è un aumento dell'IVA che scatterà per le isole dal 1° di ottobre, per le isole maggiori era già in vigore. Scattano dei tagli alle pensioni, le baby pensioni. Quindi ci sono delle cose impopolari, molto complicate, che vanno fatte, implementate. Chi se non una grande coalizione può reggere l'urto di una riforma così in profondità e antipopolari, perché sono riforme però che Tsipras vanno. Però Tsipras ha detto io sono contrario. Certo, perché nella dialettica parlamentare è ovvio che tu prima di avere il voto cerchi di uniformare, cioè di anche galvanizzare il tuo elettorato. Elettorato che invece dalla parte soprattutto giovanile, che era stata quella che aveva dato il grosso impulso soprattutto nel referendum, poi però completamente disatteso, oggi è deluso, oggi non andrà probabilmente a votare, quindi ci sono grosse incognite. Infatti si prevede un tasso di astensione del 40%. Il più grosso partito è quello dell'astensione. L'altro elemento che rende ancora però tutto sul tavolo è il debito, come dicevi giustamente tu, bisognerà tagliarlo, ma come e con quali garanzie? Perché il Fondo Monetario non può dare fondi, prestiti a uno Stato che non è in grado di ripagare, e per farlo deve fare queste riforme. E qui torniamo quindi alla grande coalizione, che però non è nelle corde dei greci, non è nella loro tradizione, e quindi ancora una volta è questo paese che è chiamato a diventare più europeo, cioè a trovare soluzioni che sono fuori dalla sua storia, ma che sono le uniche che possono portarlo a restare nell'euro, perché il 12-13 luglio Schäuble ha messo sul piatto un aspetto che Siriza e Tsipras non si aspettavano, cioè ha detto mi stai ricattando dicendo che esco, bene, io vedo questo bluff e adesso andiamo a vedere le tue carte, e a quel punto lui ha dovuto fare marcia indietro, perché i costi dell'uscita dell'euro, soprattutto per le fasce più povere, sarebbero stati enormemente più alti, e quindi ha dovuto fare questo passo indietro su cui Varoufakis ancora non si rassegna. Sì, anche se io apprezzo, a dirti la verità, Vittorio, che in una delle sue recenti interviste, comparse anche sulla stampa italiana, Varoufakis, a differenza di moltissimi no-euro italiani che dicono, magari anche autorevole titolare di cattedra come il professor Bagnani, che dicono che chi parla delle dannose conseguenze rovinose sul risparmio e su chi ha redditi più bassi l'uscita dall'euro sarebbe una specie di invenzione, lo stesso Varoufakis, interrogato e messo alle strette sul suo famoso piano B, quello per cui poi apprendemmo che erano pronti anche ad arrestare il presidente della Banca Centrale Greca, che non la pensava come loro, lui stesso ha detto no, beh, certo che sarebbe stato con esiti terrificanti, però lui dice per quanto terrificanti nel breve preferisco nel medio pensare di uscire con regole e stare con regole diverse, però non nega Varoufakis che quello che l'uscita comporta questo passaggio stretto, per così dire. Ma nella tua stima e per come hai approfondito la vicenda greca, cosa ti aspetti che avvenga a sinistra di Siriza? Cioè, visto che è un terzo dei componenti dell'organo nazionale del partito che alla fine ha detto no, se ne va in questa unione popolare e così via, avrà successo l'ondata dei delusi che dicono noi abbiamo chiesto il referendum per farci dare un pieno mandato ma non per firmare questa capitolazione? No, io non penso, perché lo scenario politico greco è fatto anche di personalità, quindi loro hanno bisogno bisogno di una, come tutti poi, c'è bisogno di un forte leader carismatico. Tsipras in qualche modo, in maniera anche broccambolesca, con cambi di rotta a 180 gradi, cioè è rappresenta in qualche modo questo carisma e quindi c'è molta empatia nei confronti delle sue ricette. Mentre a sinistra non Mentre a sinistra non c'è questo non c'è un leader che possa catalizzare l'interesse. C'è Varoufakis, a cui corre dietro tutta la stampa internazionale, in Grecia non è un leader carismatico. Assolutamente, Varoufakis è stato aspramente criticato a Exarchia, che è il quartiere anarchico di Atene, da gruppuscoli che lo appunto lo invitavano a essere più radicale di quanto non fosse e nello stesso tempo non gli riconoscevano quella leadership che loro avevano preventivato. Quindi in realtà è molto più conosciuto diciamo nei media internazionali che nella stessa Grecia, dove è un po' il destino ieri di alcuni leader dell'area, per così dire, gauche caviar, il radical chic. Non a caso lui ha parlato in quell'intervista, come tu accennavi, a una network europeo dove ci sarebbe Dominique Strauss-Kahn, dove ci sarebbe Montebourg, l'ex ministro dell'economia francese che è stato appunto invitato a lasciare il posto da Hollande perché troppo radicale, troppo anti-austerity. E poi sostituito da Macron, che invece è liberista. Quindi. Esattamente, quindi è un mondo che in qualche modo cerca, come dire, più visibilità, ma non ha molti consensi, non ha molti voti. Io non penso che ci siano così tanti sondaggi che diano appunto. E a destra, adesso ti faccio la domanda, ma la risposta dopo un minuto di informazione stradale, e a destra Alba Dorata, perché poi dobbiamo parlare di questa nuova crisi che si abbatte sulla Grecia, perché i migranti, 150-180 mila migranti per la Grecia, sono un problema per noi, figuriamoci per la Grecia in queste condizioni. Quindi ti chiedo subito, ma non è che la destra a questo punto esplode di fronte alla delusione di tanti, la spaccatura della sinistra, eccetera, e i migranti che arrivano? Però no, ci rispondi tra un minuto. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta a 16:48 primi 18 secondi. Stiamo parlando di un grande buco nero dell'informazione del nostro paese. Si rivolta in Grecia domenica. Avete sentito, non ci sono prospettive di un governo stabile dai sondaggi. Si riapre la questione dell'immenso, impegnativissimo programma di riforme da fare, 55 interventi radicali nell'economia e nelle regole pubbliche greche, dalle tasse, privatizzazioni per 50 miliardi. Io non ci crederò mai. Beh, ve lo dico sinceramente, non ci ho mai creduto a quella cifra perché non ha un riscontro negli asset realmente privatizzabili in Grecia, però queste sono le cose che l'Europa gli ha fatto sottoscrivere senza abbattere il debito e noi non ce ne occupiamo. Poi evidentemente la cosa riesploderà più avanti. Ci siamo fermati con Vittorio Darold, che è inviato adesso 24 ore ed è autore di un libro che vi invito a leggere, La Grecia ferita, per Asterios Editore, su un punto, visto che la Grecia adesso si trova pure a essere inondata da questa enorme crisi europea dei migranti, dei profughi, perché ovviamente insieme all'Italia sul versante sud erano i due canali di ingresso. Oggi c'è stato il collasso della Croazia, stiamo registrando il collasso di tutti i paesi di fronte al fatto che l'Ungheria sta oramai chiudendo tutti i suoi muri con tutti, quindi come ovvio il flusso non è che si interrompe, tenta di penetrare dai punti di accesso di transito con meno controlli, e la Grecia si trova in queste condizioni tragiche. Non è che questo aiuta la destra al voto, Vittorio? Sì, assolutamente. Alba Dorata è in una situazione drammatica perché tutta la sua diciamo classe dirigente è praticamente sotto processo, quindi c'è una strana situazione per chi come me ha avuto il privilegio di andare a seguire i lavori parlamentari durante i primi passaggi di queste diciamo priorità, come si chiamavano, vedeva arrivare con appunto i furgoni della polizia penitenziaria i deputati di Alba Dorata che entravano poi perché avevano naturalmente il diritto di voto. E è una situazione quindi di grave, diciamo, di una situazione di stress che sta vivendo questo partito, però è sicuramente con 180.000 nuovi migrati che arrivano da Kos e da Lesbo, che sono le due isole più vicine alle coste turche, e qui gli amici greci dicono che secondo loro c'è appunto una quantomeno la Turchia di Erdogan, insomma ecco, chiude un occhio, mettiamola così. Ci siamo capiti. Hanno dovuto subire una situazione in nel momento del turismo, che per loro è il 20% del PIL, quindi una situazione molto, molto importante per loro, questa massa di profughi. Che cosa è successo? Che questi arrivano, se chi vuole può andare in piazza Omonia e tutte le mattine vede che arrivano dal Pireo, scendono alla fermata appunto di Omonia, di piazza Omonia, che è una seconda piazza più importante di Atene, e lì ci sono dei camion dove si fanno appunto gli smistamenti e per andare nella rotta dei Balcani. Ora, questa era una cosa che tutti noi avevamo visto, però l'autorità, nessuno interveniva, perché come sempre se il profugo passa e se ne va, come dire, non è più un problema. Comunque questo è un problema gigantesco per la Grecia, enorme, in quelle condizioni. Sentiamo qualche ascoltatore. Stefano, che ci chiama dalla provincia di Verbania. Stefano. Sì, buonasera signor Giannino. Buonasera. Senta, la mia teoria magari è un pochino complottista, però visto che la Grecia non ha fatto cadere l'Europa a giugno, adesso non è che questa manovra anche di puntare sul ventre molle dell'Europa dell'Est per fare entrare gli immigrati possa essere una manovra di destabilizzazione per l'Europa? Io scusi se glielo dico, lei stesso ha premesso dicendo che è una cosa complottarda, cioè lei pensa che ci sia una specie di cupola mondiale che sposta i flussi indirizzandoli? No, nel mondo non funziona così, per così dire. Che chi fa arbitraggio sulla carne umana, perché di questo si tratta, sono fenomeni ovviamente di deviazione, ma è un tipo di mercato, è quello della carne umana, ovviamente indirizza il traffico dove ha più chance di piazzarlo, e ovviamente quello che è avvenuto, la prima svolta tedesca e poi la presa d'atto che forse era dettata da un po' di inconsapevolezza sulle conseguenze nei paesi che hanno frontiere esterne, quella di transito, ha creato una situazione adesso di domino, per cui inevitabilmente è vero che la Grecia e l'Italia rischiano di essere più esposte. Purtroppo non è una manovra, è di inconsapevolezza questa roba, non di manovra, e quindi quella è una crisi al cui confronto quella greca sembra, all'interno dell'euroarea, sembra una cosa leggera. Purtroppo vedremo che esiti avrà. Il 23 c'è un vertice europeo, un consiglio europeo. Roberto dalla provincia di Bergamo, che pensa? Buonasera Giannino, volevo fare un paragone tra quello che a mio parere è l'immobilismo della Fed, che ha dimostrato ieri, cosa che secondo me con Bernanke non sarebbe successa, malgrado probabilmente tutte le pressioni che avrebbe avuto, e il mercato che aveva già spuntato probabilmente qualche tipo di mossa. Ma il paragone tra la Fed e l'immobilismo della comunità europea, che non è in grado di decidere sulle questioni cruciali per i cittadini, quindi diciamo, però la interrompo, diciamo, sono due fenomeni completamente diversi. Guardi, io ho scritto un pezzo oggi in cui io sono convinto che dovesse iniziare la ripresa dei tassi, ho spiegato perché, sono cose un po' tecniche per così dire. Quello che mi lascia perplesso è che la Fed non spiega bene i motivi per cui, in presenza dei dati che aveva preventivato come quelli che facessero scattare un gradualissimo e lento ripresa dei tassi, ieri ha cambiato idea. Quello che si capisce dal comunicato è che l'inflazione dei paesi pesanti nel mondo, delle aree pesanti nel mondo, cioè Cina e paesi emergenti ed euro, d'ora in poi entra nel modello Fed rispetto all'inflazione domestica, non è così nel modello Fed, e dice quindi di dover stare attenta per evitare fuga di capitali dai paesi emergenti se, alzando i tassi, ovviamente si apprezza il dollaro. Comunque, siccome non spiega bene l'effetto instabilità, cioè il favore fatto al VIX, no? L'indice di instabilità, è tale che il vero aiuto è fatto al dollaro più basso per l'export americano. Questa è la sintesi dal mio punto di vista, però non c'entra con l'immobilità europea. Ti faccio una domanda secca ultima, Vittorio, ma il salvataggio delle banche greche da cui si dovrebbe cominciare si fa facendo pagare ai risparmiatori, secondo te? Dunque, fino adesso, e qui è veramente il fatto di essere nei tempi, cioè il governo greco con questo ennesimo, se lo ricordo, è il terzo richiamo alle urne quest'anno, di gennaio, referendum e settembre, e forse speriamo sia l'ultimo, perché nella Costituzione greca si può andare al voto in un mese dopo se non si arriva al governo, quindi è avvenuto nel maggio 2012, giugno 2012, in un mese si va ancora al voto. Questa cosa, se viene fatta adesso, il salvataggio, la ricapitalizzazione delle banche greche, che hanno 25 miliardi degli 85 già stanziati, si va in questo modo: bail-in ma parziale, cioè pagheranno gli obbligazionisti, pagheranno gli azionisti, ma escludiamo dal conto i cosiddetti tutelati, cioè i correntisti sopra i 100.000. Perché bisogna tutelarli questi? Perché quelli sopra i 100.000 in Grecia non sono gli oligarchi russi di Cipro, sono le piccole e medie imprese che pagano i salari e le forniture con questi soldi. Esatto, ma se saltiamo gennaio è ancora peggio che tra pubblici. Se saltiamo gennaio entriamo con le nuove regole. Dobbiamo con le nuove regole, ecco, di Europa. Evitiamoci di fare la strage anche dei risparmiatori greci in nome del rigore europeo, perché sarà una follia. Veramente sarebbe la follia, perché ancora una volta l'Europa si presenta in un modo che porta i bastonatori, per così dire. Esatto. Io ringrazio Vittorio D'Arol, vedremo cosa succede domenica. Intanto il commissario Moscovici ha ricordato ufficialmente all'Italia che deve rispettare le regole.